Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica cari gastronauti vicini e lontani, ma la buona domenica ve la voglio dare a suono di un suono musicale che a molti ricorda il passato, ahimè. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Bene, il musichiere di Riva, chissà quanti ricordano ancora questo momento. Bene, la domenica è sempre stato un momento importante per gli italiani, perché era il giorno in cui in tanti si univano a tavola, a casa, in famiglia. Oggi il mondo è un po' cambiato, ma il pranzo della domenica è rimasto quello di un tempo, è cambiato? Chi ancora si siede a tavola magari facendo un lungo pranzo come era un tempo? Questi sono un po' gli argomenti che tratteremo oggi. Allora vi ricordo 800 24 00 24 per chi volesse intervenire, 349 238 6666 per chi volesse mandare sms. Ho qui con me durante questa trasmissione una grande esperta di recupero del cibo, per questo alla domenica forse si butta via più di altri giorni, vero Lisa Casali? Sì, ciao, buongiorno. Si butta via più cibo la domenica secondo te? Secondo me si tende un po' a esagerare, i piatti della tradizione a volte ci portano a stare troppo a tavola e a volte esagerare un po' anche col menù e con le quantità. Bene, allora sentiamo quali sono però i risultati delle ricerche, cosa dicono a proposito del pranzo della domenica, e lo chiediamo a Giovanni Ballarini, presidente dell'Accademia della Cucina, nonché anche grandissimo esperto di cibo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide, ben trovato, ottima domenica. Dimmi. Beh, volevo chiedere, voi avete fatto un'indagine come Accademia della Cucina su ancora il pranzo della domenica, resiste in questo paese? Tiene, siamo sul 60-70% delle famiglie che fanno il pranzo della domenica, certamente un po' diverso di quello dei loro padri e dei loro nonni, però la domenica è il giorno in cui ci si riunisce con le nuove famiglie tradizionali e quelle allargate, ivi compresi anche gli animali, ma quindi è il giorno in cui la tavola diventa il punto centrale della festa laica di questa domenica. Ma tu hai detto appunto che è cambiata la tavola e quindi non si fanno più pranzi lunghi a base di sfoglia, a base di, diciamo, di piatti che vogliono lungo tempo. Molti sono i cambiamenti. Innanzitutto abbiamo avuto in questi ultimi 15-20 anni un forte rimescolamento delle popolazioni, nel senso che oggi è facilissimo trovare delle famiglie in cui vi sono componenti, uno che viene dal nord, uno che viene dal sud, uno che viene dalle isole, per cui non c'è più la cucina monotematica, a Bologna tutti i bolognesi, a Torino tutti i torinesi, e in Sicilia tutti quanti catanesi ad esempio, no, questo qui è un po' saltato. E allora un bellissimo interscambio, perché ognuno porta le sue, diciamo così, competenze. Però il primo di pasta, il secondo di carne e il dolce è una triade che rimane fortissima, con la volontà però anche di farlo almeno in parte con le proprie mani, più che farlo assemblare cose acquistate, che so io, la pasta si compra già fatta, il condimento lo si può anche fare o comprare già fatta, però lo si vuole mescolare e fare in proprio, quindi un po' di mano, un po' di pizzico di se stesso rimane ancora come volontà, e presentarlo in tavola dicendo l'ho fatto con le mie mani. Bene, grazie a Giovanni Ballarini, presidente dell'Accademia della Cucina. Ma io chiedo subito a Lisa Casali, si fa meno pasta, quindi Lisa tu hai meno da lavorare, hai meno da inventare ricette? Io la sfoglia, diciamo che in questo momento la faccio veramente solo nelle occasioni speciali, allontanandomi da casa un po' per studio, un po' per lavoro, come capita tantissimi, ho un po' perso questa consuetudine del pranzo domenicale, anche un po' un sollievo ogni tanto, perché può essere anche un po' un obbligo e tante ore a tavola non sempre sono il massimo. Dopodiché adesso la sfoglia la faccio veramente in occasioni dove il pranzo diventa di per sé un momento di festa, e il cibo nelle ricette più tradizionali la massima bellissima espressione, per cui provo un piacere particolare nel fare il cappelletto piuttosto che il passatello, che è una ricetta che amo e che ad esempio prevede il pane raffermo, quindi un ingrediente assolutamente di recupero. Ecco, quindi diciamo che la pasta hai perso diciamo un'occasione di lavoro, perché sì, non facendo meno la pasta si fa, ecco, ma i piatti di recupero sono tanti con la pasta, vero? No? Quello che resta della pasta. Sì, diciamo che soprattutto le ricette tradizionali e regionali prevedono tantissimo di recupero, che sia il pane o possono anche essere pasta avanzata. Dopodiché credo che la maggior parte degli italiani in realtà riservino per il giorno del pranzo, della festa, gli ingredienti migliori e poi magari si recuperano il resto della settimana tutto quello che può restare o avanzare, anche scarti di ortaggi. Ecco, perché vedo un libro che tu hai curato, appunto dopo ne riparliamo, ma passatelli estivi tricolori, quindi cioè, i passatelli per un romagnolo sono importanti la domenica, i passatelli in brodo è quasi una consuetudine, quindi si possono recuperare. Sì, diciamo che questo è il concetto di questa ricetta, che è contenuta nel libro Buttali in pentola, è del mixare da un lato quindi il pane raffermo con altri ingredienti di recupero che possono essere scarti di carote, di ortaggi, quindi che diventano un ingrediente in più che dà colore al passatello e quindi diventa una ricetta tricolore. E questa è una ricetta di una lettrice che l'ha regalata a questo progetto, appunto, che raccoglie tutte le ricette antispreco. È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori, si sveglia la città più dolcemente, perfino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì. Eccoci di nuovo a parlare del pranzo della domenica. Abbiamo sentito che resiste, come ci ha detto il presidente dell'Accademia della Cucina. E vedo che un SMS che mi dice: è tradizione ai morti polenta toragna con costine e puntini di maiale, poi a seguire ogni domenica cassole e trippa. È inutile vivere una vita da malato per morire da sano. Bene, bello questa, diciamo, questo SMS di questo radioascoltatore Carlo, ma non è che mangiano tutti così alla domenica, perché appunto c'è anche chi va a correre alla domenica e quindi magari mangia uno spuntino semplicemente. E l'Italia su questo si divide, anche un'Italia di crisi. Ma io voglio chiedere, abbiamo con noi ora uno chef del ristorante Luce di Villa Panza a Varese. Perché Matteo Pisciotta? Perché Matteo Pisciotta per anni ha fatto la domenica, organizzava un brunch addirittura per i bambini che durava fino alle 7 di sera. Quindi diciamo che la tradizione veniva rinverdita del pranzo della domenica, Matteo? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori e innanzitutto un in bocca al lupo per questa versione domenicale del Gastronauta. Ti ringrazio. E sì, devo dire che la tradizione del pranzo domenicale ribaltato sul ristorante è una tradizione che è difficile portare avanti, perché adesso abbiamo questo imperare del brunch che è andato in qualche maniera ad arricchire l'offerta della domenica e a mettere un pochino da parte quelle che sono le tradizioni effettive. La mia domenica casalinga era una domenica che era già una sorta di brunch, perché ti svegliavi, c'era concesso di dormire un pochettino di più la mattina e ti svegliavi già col profumo della bolognese che la mamma cucinava, ti svegliavi già col profumo dell'involtino di verza tipico lombardo e la colazione era già spostata un pochettino più avanti nell'orario della mattinata. Appena dopo la colazione c'era lo spazio per la messa, ma già al ritorno c'erano già le prime fette di salame piuttosto che la pancetta, qualche scaglia di parmigiano e poi si andava gradualmente verso quello che era il pranzo domenicale, quindi era già una sorta di brunch. Ecco, rimani con noi, vorrei che tu pensassi a una ricetta molto semplice domenicale per chi magari non ha tanto tempo, però è una ricetta valida. Sentiamo un radioascoltatore, Luciano da Modena. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Prego. Niente, il pranzo della domenica è sacro, a costo di fare i salti mortali, poi ovviamente non ci si riesce sempre, però diciamo che è uno dei momenti in cui ti rilassi, li rimetti insieme tutta la famiglia e insomma. Ma lei cosa? Un paio di ore in tranquillità e ascoltando e ridendo. Lei che è un modenese, quindi diciamo area golosa, cosa preferisce mangiare la domenica? Qual è il suo pranzo della domenica? Ma dipende dalla stagione. Questa è la stagione della zucca, per dire, fino al mese scorso era la stagione dei tortelli di ricotta, andando avanti c'è, comincia la, l'aria tortellini. Quindi lei è uno stagionale, mi sembra di capire che rispetta sì, proprio. Il corso delle stagioni. Assolutamente. Bene Luciano, visto che abbiamo con noi Lisa Casali, sentiamo di recuperare la zucca. Ecco, in quante maniere si può recuperare la zucca, Lisa? Io ne ho fatto una battaglia proprio questi giorni per Halloween, urlando la zucca mangiamola, non sprechiamola, quindi per fare le lanterne. La zucca in realtà... Sono d'accordo, anch'io sono d'accordo su questo. No, della zucca l'unica cosa che personalmente mi sento di autorizzare a buttare via è il picciolo, perché tutto il resto è commestibile. In realtà è un ortaggio da cui si possono ricavare 4 ingredienti: polpa, buccia, i filamenti interni e i semi, e ognuno di questi può dar vita a dei piatti buonissimi. Ecco, allora, visto che appunto è mezzogiorno già passato, se qualcuno ascolta la trasmissione in casa mentre sta preparando il pranzo, prego di intervenire. 800 24 00 24. Cosa state preparando? Ecco, questa è la domanda che vi faccio. Un altro bellissimo SMS: il pranzo della domenica è una bellissima tradizione da preservare perché parla di bellezza e la bellezza salverà il mondo. Luca da Roma. Beh, qui c'è un po' di sgarbi, vedo, perché è la sua battaglia sulla bellezza che salverà il mondo. Matteo, hai pensato alla ricetta? Ho pensato alla ricetta per voi, visto che siamo ormai quasi in tema natalizio, consiglio a tutti i radioascoltatori di prendere un panettone artigianale ben fatto, lo si taglia col coltello in maniera parallela al tavolo, quindi ricavandone dei grossi dischi come se fosse un panettone gastronomico, si fa sciogliere un pochettino di burro in una padella antiaderente e lo scottate come se fosse un pan brioche, quindi finché caramella leggermente da entrambe le parti. E poi, visto che parlavate di zucca, vi consiglio di farcirlo e di farcire due strati come se fosse un sandwich, con dentro un po' di zucca cotta al forno e schiacciata con una forchetta, come diciamo si fa a casa, e qualche fetta di mortadella buonissima. È un puntino per tutte le ore. Bene, quindi rimani ancora con noi. Io leggo un altro SMS veramente interessante. Tutte le sante domeniche da nonna, immancabile pranzo in famiglia, siamo in 24 nipoti compresi, con tagliatelle, bollito, smegna, questa non so cosa sia, e fave stiappone. Anche d'estate. Tu sai cosa sono le fave stiappone? No, però mi è fatto venire in mente il mantra di mia nonna fin da quando ero piccola: cosa ci vuole a far due uova di tagliatelle? Cosa ci vuole? A far due uova di tagliatelle. Per lei ci voleva poco? Ci vuole pochissimo, secondo lei, in pochi secondi, in realtà facendole sempre, poi ti vengono veramente facilmente spontanee. Ecco, qui la ricordo io che per le tagliatelle ho una ricetta di recupero, che quello che resta alla sera passarlo in padella e secondo me diventa molto più buono che diciamo all'origine. Io credo che moltissimi siano i piatti che sicuramente vanno riscaldati il giorno dopo, ad esempio i minestroni, e secondo me diventano migliori. Non so cosa ne pensi, Lisa. Beh sì, anche la ribollita e la classica riso al salto o tutte le frittate di pasta sono dei piatti talmente semplici che a volte li mettiamo un po' da parte, come se fosse qualcosa di povero, e in realtà sono veramente delle piccole leccornie, dei bocconi davvero golosi da gustare il giorno dopo. Matteo Pisciotta, ma i cuochi di solito, gli chef, lavorano anche la domenica, ma quando non lavorano, ecco, voglio chiedere, cosa mangiano a casa? Fanno loro, preparano loro il pranzo, oppure la moglie o la sorella o la mamma? Ma devo dire che a me piace far da mangiare anche a casa per gli ospiti, per gli amici, è una parte della mia vita privata che coltivo in questa maniera, quindi ai fornelli, che è comunque la professione e la mia passione, quindi lo faccio anche a casa più che volentieri. La moglie cucina, la suocera cucina, diciamo che quando ho il privilegio di riuscire a mettere le gambe sotto un tavolo, che è cosa veramente molto molto rara, lo faccio assolutamente da gourmand, quindi insomma apprezzando tutto quello che c'è. Ma Esther da Monza scrive una cosa divertente: mia madre anziana sta facendo la cassola con le cotiche che mangia solo lei, quindi è un passato sicuramente. Beh, la cassola si può mangiare per più giorni, immagino, no? Così, Lisa? Assolutamente, poi è un piatto fantastico, adesso se ne fanno anche le versioni light, ma secondo me di rado, ma facciamolo per bene con le cassole. Sono d'accordo con te, anche chi vuole mangiare il salame magro, non ci siamo. Sentiamo Vincenzo da Firenze, è un radioascoltatore. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Prego. Volevo intervenire solo una piccoletta, secondo me, io sono di Napoli, vivo a Firenze da 10 anni ho notato che giù al sud è molto più sentito il transito domenicale, infatti a casa mia sono in piena preparazione, se ne parlerà stasera alle 6, invece noi qua a Firenze io sono diventato quasi del centro, perché alle 2 finisco tutto e si esce, si va in giro, centri commerciali, centrali. Senta, questo era il mio pensiero. Vincenzo, volevo chiedere questo, lei è napoletano di origine, ha detto, ma a Napoli il pranzo di mezzogiorno è una cosa molto seria. Molto seria, io sono nato col profumo del ragù alle 6 di mattina con mia nonna e mia mamma, quindi sono proprio cresciuto col pranzo classico. Un ragù, come diceva Edoardo De Filippo. Sentiamo Massimo da Prato, un altro radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno a voi. Dicevo appunto, ho sentito dire che alcuni piatti sono chiaramente più buoni il giorno dopo. Io vi dico, vi posso garantire che se voi preparate uno spezzatino con funghi e patate, con poi chiaramente della polpa per farlo cuocere lentamente, va lasciato quasi cotto, il giorno dopo è più buono perché le patate finiscono la cottura da ferme, assorbono tutto il sugo e i sapori si mischiano. Beh, Massimo, io mi aspettavo da lei, toscano, che parlasse della ribollita, perché anche quella sicuramente il giorno dopo è migliore del giorno in cui si è preparata. Esatto, la ribollita, la pappa col pomodoro, queste cose qui, però vista la stagione purtroppo in questo momento i funghi da noi stanno mancando perché non piove da 30 giorni, ma sta per arrivare un diluvio a metà della settimana prossima, speriamo di no, prepariamo le zattere, e i funghi ci sono stati, e quindi preparare questi spezzatini di carne di vitello con funghi e patate che poi assorbono tutto il sugo e il giorno dopo sono perfetti. Riscaldate il giorno dopo, per non farle attaccare, riscaldate al microonde. Bene, grazie. Io sul microonde ho molti dubbi, però, perché asciuga abbastanza, ma devo dire che oggi il microonde ormai è talmente diffuso, si trova in tante cucine anche di chef importanti, quindi vuol dire che va usato. E, Lisa, io vedo oggi tortelli di zucca con ragù, ci scrive Lorena, ma voglio chiedere, il ragù può essere fatto, poi può essere dura per una settimana? Sì, diciamo, sicuramente fare un buon ragù prevede una lunga preparazione, può essere più o meno ricco in base anche alle materie prime che si scelgono, può a sua volta diventare anche un elemento di recupero, perché magari si utilizzano scarti di ortaggi, di sedano, di carote, di cipolle, la carne stessa può essere recuperata. E mi interessa, insomma, parliamo molto appunto del momento del pranzo e consigliavano alcuni ascoltatori di conservare le cose per il giorno dopo. Secondo me comunque è importante anche quando si cucina, cercare di cucinare il giusto, di non esagerare poi nelle porzioni. È vero che qualcosa è più buono il giorno dopo, ma anche poi creare troppi avanzi, poi a volte si rischia che queste cose vengano buttate via. Eccoci di nuovo a parlare del pranzo della domenica. Bene, abbiamo sentito prima dal professor Ballarini, presidente dell'Accademia della Cucina, che secondo le ricerche che sono state fatte appunto dall'Accademia, il pranzo di mezzogiorno tiene in questa Italia. Io ho qualche dubbio, però diciamo che sarei contento che fossero reali e vere appunto le ricerche che sono state fatte, cioè nel senso che la rispondenza della gente fosse stata veritiera, non tanto, non metto in dubbio la ricerca dell'Accademia, quanto chi ha risposto. Ma io di questo argomento del pranzo della domenica ne voglio parlare con un sociologo molto importante che ha fatto dell'ozio, diciamo, un argomento importante, ha portato all'attenzione l'ozio attivo, l'ozio appunto che non è quello passivo. E proprio lui voglio chiedere se il pranzo della domenica è un pranzo in cui si può prendere tempo, ci si può riposare, insomma, alla fine è utile nella vita di ogni giorno. Buongiorno al professor Domenico De Masi. Buongiorno a voi. Ma sa che c'è una differenza enorme tra il pranzo della domenica in Italia e in altri paesi. Io frequento molto il Brasile, ho la cittadinanza di Rio de Janeiro. In Brasile, ad esempio, il pranzo della domenica è un pranzo infinito. Comincia, diciamo, intorno a mezzogiorno, si invitano varie persone, non solo i familiari, e queste persone arrivano man mano da mezzogiorno fino alle 3, le 4, le 5, fino a combaciare, diciamo, con la cena. e in qualche modo il pranzo della domenica diventa il modo con cui ci si divide con gli amici, si parla del più e del meno, si fanno i progetti per le vacanze e così di seguito. Da noi questo naturalmente è molto più contenuto, però io credo che il pranzo dei giorni feriali ormai non tiene quasi più, tiene soltanto nei paesi, dove i paesi sono piccoli o le cittadine sono piccole, l'intervallo per il pranzo consente ancora di andare a casa. Nelle città è praticamente impossibile, per cui la vita industriale e post-industriale ha distrutto il pranzo nei giorni feriali. Forse questo pranzo risorgerà quando faremo telelavoro, quando lavoreremo, io spero, quanto prima possibile, restando a casa senza bisogno di intasare le città. Ma per ora è raro nelle grandi città. Il pranzo della domenica resiste. Resiste perché è praticamente la messa laica. Man mano che si laicizza il paese, la popolazione, restano più i riti laici che non quelli della mensa eucaristica, diciamo. Professore, rimanga con noi, sentiamo Paola da Padova, una radioascoltatrice. Buongiorno Paola. Buongiorno. Prego. Intanto volevo salutare Elisa, che ho conosciuto in occasione di una manifestazione a Milano. Bene. In quanto anch'io, io ho una scuola di cucina a Padova, per cui ci siamo incontrate proprio per lavoro. Ciao Paola. Ciao. Io, un ricordo fantastico dei pranzi domenicali della nonna, il profumo del bollito al mattino quando ti alzavi, è un ricordo veramente importante. Però volevo parlare di un piatto di recupero da poter utilizzare sempre in occasione della domenica. Io quando avanzo un arrosto, un umido di faraona o di pollo, creo un ragù con questo, faccio una sfoglia, come diceva Elisa, che al limite ci si mette così poco, la prelesso e faccio un rotolo con un po' di besciamella e questo ragù e in forno. Io credo che per una domenica è un piatto importante che ha dei ricordi proprio dei profumi di vecchia data. Vedo che Elisa approva questo annuisco piatto. Annuisco decisamente. Beh, mi sembra però che ci voglia un po' di tempo su questo piatto. Questo piatto sì. Prego. Però è una cosa che si può preparare, diciamo, un giorno prima e mettere in forno proprio in occasione del pranzo, per cui sì, è vero, serve un po' di tempo, però se abbiamo appunto un avanzo di arrosto lo possiamo riutilizzare in un'occasione così particolare. No, ma poi per sono d'accordo, il pranzo della domenica magari non sempre, non tutte le domeniche, ma quando lo facciamo dedichiamoci tutto il tempo possibile. Bene, io ricordo 800 24 00 24 349 238 6666 e leggo un SMS che non è firmato. Comunque, sono sempre in disaccordo con mio marito sulle porzioni, lui vorrebbe farle piccole e dice che gli ospiti devono rimanere con il desiderio, io invece sono per le porzioni normali più una zuppiera pronta per fare il bis. Chi ha ragione? Ebbene, lo lanciamo magari ai nostri radioascoltatori, chi volesse rispondere a questa, diciamo, a questo interrogativo. Ma ne leggo un'altra SMS davvero divertente, perché inizia: le frecce, è obbligatorio mettere le frecce alle rotatorie? Bene, cara Carmen D'Acune, io non sono un esperto di questo, ma credo che non bisogna metterle. Comunque, a seguire il SMS parlava della nostra trasmissione. Grazie, il pranzo della domenica costrinse mia madre, che lavorava, ad alzarsi presto e a cucinare per ore. Abbiamo eliminato la tradizione, mia madre Carmen riposa e viviamo felici e contenti. Bene, e anche questo è il grande dilemma appunto che si pone nelle famiglie. Ma voglio tornare un po' al discorso che ha fatto il professor De Masi, che ha detto appunto è la fine di un certo modo di pensare, di comportarsi, il pranzo di mezzogiorno. Oltre, diciamo, porta delle conseguenze enormi anche dal punto di vista economico l'annullamento del pranzo di mezzogiorno, perché ne soffrono in maniera veramente molto, ma molto forte, le trattorie, i ristoranti, e ne soffrono meno i bar, perché ormai si va ai bar per mangiare. Ma voglio chiederlo a uno chef importante a Firenze, del Four Seasons, dove c'è un brunch che ha avuto un grande successo, il brunch domenicale, a Vito Mollica. Buongiorno Vito. Buongiorno Davide, buona domenica. Ti volevo chiedere, i ristoranti ne soffrono molto di questa rivoluzione che non si mangia più a mezzogiorno? Guarda, i ristoranti, il nostro non ne soffre, perché dietro la parola brunch effettivamente il pranzo domenicale italiano, perché noi abbiamo aperto 6 anni fa con il brunch pensando di prendere la nostra clientela in casa, invece ci siamo sbagliati completamente e abbiamo visto che il riscontro maggiore l'abbiamo avuto dalla clientela di Firenze, quindi Prato, Empoli eccetera eccetera, quindi famiglie dal nonno al papà al nipotino, quindi il ritorno del pranzo domenicale noi lo stiamo avendo tutte le domeniche ed è una cosa molto importante per noi, ecco, quindi è importante a livello anche di coperti, a livello di numeri, ed è una bellissima situazione che si crea tutte le domeniche. Sono le famiglie appunto che vengono al brunch? Noi la maggior parte sono famiglie, quindi grossi numeri, poi ora è diventato anche molto popolare, quindi è famoso, abbiamo anche gente che arriva da altre città, adesso con i treni veloci abbiamo coppie che arrivano da Roma piuttosto che da Bologna o da Milano a farsi la giornata a Firenze, ecco, a farsi la scampagnata domenicale a Firenze. Invece di andare fuori porta come un tempo magari con la macchina che balbettava, ora si prende la freccia rossa e si corre nei posti più interessanti. Io voglio tornare al professor De Masi, perché si parla sempre di profumo, della nonna, della zuppiera. Professore, io penso, l'ho anche scritto questo, che non ci sia diciamo una voglia di tornare al cibo di allora, ma sia una voglia intrisa di nostalgia, cioè che sia intrisa di nostalgia della nonna, di nostalgia delle coccole della nonna, magari del padre, della madre che non ci sono più, non tanto in quanto il cibo che si mangia. Ma guardi che un tempo tanti nonni non c'erano. Il nonno è una figura recente, perché quando si moriva intorno ai 50 anni non si faceva in tempo ad avere dei nonni. Le famiglie di un tempo erano piene di zii e poverissime di nonni. Io stesso ho conosciuto molti zii, ma non ho conosciuto i miei nonni. Il nonno è una figura più recente da quando la vita si è allungata e è invertito il rapporto, nel senso che ci sono molti nonni e pochi zii. Io ho una nipotina che ha praticamente dunque una sola zia e ha 7 nonni, perché basta poi risposarsi ed ecco che aumenta il numero dei nonni. Però c'è questo sapore diciamo delle Madeleine di cui parla Proust, cioè il sapore delle cose d'un tempo che si impregnano soprattutto di fatti mitici, e questo va benissimo, coltivarli va molto bene. C'è da dire che oggi tutti quelli che si sono interessati di cibi, penso a Carlino Petrini di Slow Food, a tutti i grandi chef eccetera, sono riusciti veramente a riportare in una posizione preminente l'importanza del cibo, del cibo sano, del tipo giusto, del tipo che in cui il rapporto tra costo e qualità è salvaguardato, in cui la nostra salute può fidarsi e non essere insidiata, e questa è una cosa bellissima, perché il cibo viene elevato da uno strumento per la semplice sopravvivenza, come purtroppo con le mense aziendali, che sono una tragedia, perché si mangia malissimo anche se ci si illude che si sta facendo un rito umano. E riportare l'importanza del cibo in primo piano significa riconferire una dimensione filosofica, una dimensione estetica a un fatto importantissimo della nostra vita che la società industriale aveva reso soltanto strumentale. Io ho dovuto fare molte ricerche, per esempio nelle fabbriche, e lei non può immaginare cos'è il cibarsi, per esempio nel turno di notte verso le 4 del mattino di corsa, mentre le gru vanno su e giù, è una tragedia. E invece il cibo è una cosa bella, perché nutre il nostro corpo e fa da supporto al nutrimento della nostra mente. Grazie professore, grazie del suo intervento. Grazie a lei. Grazie. Grazie a lei. Allora torniamo a Vito Mollica, perché Vito Mollica è lucano e ci tiene anche alla sua terra, tiene anche ai piatti della sua terra, e voglio chiedere a Vito se si ricorda, perché lui è tanti anni che manca dalla Basilicata, del cibo domenicale della sua terra, se c'era qualcosa di particolare. Ma guarda, guarda, la domenica era forse il giorno dove davvero si ammirava la mamma, la zia, la nonna lavorare dal mattino presto e portare a pranzo in modo molto orgoglioso queste grandi pietanze di lunghe cotture. Quindi questo è anche un po' quello che cerco di fare io qui a Firenze, perché effettivamente il cibo è importantissimo in una domenica, ma la cosa più importante è il rito che c'è dietro, quindi le emozioni, l'esperienza che si fa con le chiacchiere, le risate, ed è quello che insomma fa parte un po' della mia infanzia e dei ricordi che ho. Quindi cerchiamo di trasmettere anche questo in un ambiente come il nostro, che è appunto il four season, ecco. Ci consigli un piatto invece di casa, per casa? Il piatto per casa, credo che effettivamente ne abbiamo tantissimi anche in questi giorni. Uno, cosa parto? Dallo stinco di vitello glassato, alle polpette? Fai le polpette, veloce sulle polpette. Dai, velocissimo sulle polpette. Abbiamo oggi le polpette di vitello e maiale, carne mischiata insieme a del pane a lievitazione naturale, profumata a prezzemolo e aglio all'interno. Dopodiché ho fatto il sugo classico lucano con un soffritto di cipolla che diventa quasi oro, un cucchiaino di concentrato e tanto buon pelato finché sobbolle bene, salato e pepato. Poi si aggiungono le polpette rosolate a parte e si fanno cuocere insieme finché non diventano un tutt'uno, ecco. Ma devo dire che io ho letto questa SMS sulle frecce, ma non pensavo di scatenare così tante risposte. Sì, tutti mi dicono che sono obbligatorie. Bene, io ho sbagliato. Comunque ricordo 800 24 00 24, ma non per intervenire sulle frecce, sul pranzo della domenica. Bene, Lisa Casali, tu hai pubblicato questo libro Buttali in pentola. Ci racconti un po' cos'è? In realtà io sono solo la curatrice, quindi ci ho messo un po' la faccia e sicuramente dell'impegno. In realtà il libro è stato realizzato da WWF Auchan e abbiamo dato la possibilità a chiunque di caricare le proprie ricette su una piattaforma online che si chiama Insieme contro gli sprechi, e poi le migliori, sì, le ho scelte io e le abbiamo messe in questo libro, quindi che si può acquistare in tutti i punti vendita Auchan e il cui ricavato viene devoluto a WWF per progetti per la conservazione della natura. E sono ricette molto, molto carine, molto anche tradizionali, regionali, e ci sono anche ovviamente tante versioni delle polpette che nominavamo pochi secondi fa. Bene, grazie. Bene, quindi è un libro da comprare, anche perché si fa della beneficenza poi in fondo. Allora, volevo leggere però, prima di passare la parola a un personaggio molto noto nel bolognese e anche fuori, a Stefano Bicocchi in arte Vito. Buongiorno Vito. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima leggo un SMS perché è interessante. Trasferendomi in Scozia per lavoro, sono passata dal pranzo tradizionale veneto al pranzo multietnico con i miei coinquilini. Cambiano le pietanze, ma rimane la voglia di unirsi a tavola insieme, specialmente la domenica. Bene, Mara, mi sembra interessante questo. Stefano, ti chiamo Vito perché tu ormai sei notissimo come Vito. Sì. Tu sei anche ristoratore, oltre che essere un bravissimo cabarettista o comico. Quindi, sì. secondo, ti voglio prendere con la doppia veste, magari anche quella di comico sulla battutaccia che tu hai sempre. Sì. Ma volevo chiedere, tu il pranzo la domenica lo fai ancora, visto che sei bolognese, i bolognesi ci tengono molto. Sì. Guarda, a casa mia il pranzo della domenica è un'istituzione, noi facciamo tutti i lavori che siamo sempre in giro, ma la domenica ci troviamo e non si scherza, nel senso che il pranzo della domenica è molto importante, è il giorno in cui la famiglia si ritrova, è il giorno in cui il mio papà e la mia mamma mettono in tavola tutta l'esperienza che hanno avuto negli anni. Oggi ad esempio, ieri mio padre hanno regalato dei magnifici funghi porcini, oggi farà un risotto con i funghi, quindi è un momento importante, ma veramente importante, non si scappa. La domenica bisogna andare a mangiare a casa dei genitori e si fa questo pranzo bellissimo. Senti Stefano, ma i primi non mancano, immagino, tagliatelle, no, o cappelletti o... Sì, o tortellini, sì, c'è di tutto, c'è la tradizione, c'è il bollito con le salse, la salsa verde con la salsa rossa, con il purè, sono quei pranzi dove è un piacere sedersi, pericolosissimi, perché hai capito le porzioni che si fanno in famiglia, soprattutto la domenica, perché c'è la scusa per dire vai, va, guarda, dai, sei un po' pieno, ti metti sul divano e fai la digestione, hai capito? Quindi sei obbligato veramente a mangiare, ma con grande piacere, perché sono sempre cose molto buone. Ma tu cucini mai la domenica? Sì, io cucino sempre. Io cucino, ieri sera ho fatto una cena, eravamo in 6 persone, sono uscito, perché sto provando in teatro lo spettacolo, sono uscito dal teatro alle 2 del pomeriggio e mi sono messo in cucina, abbiamo mangiato ieri sera alle 9, ma con grande divertimento, hai capito? Veramente con un grandissimo divertimento. Io cucino sempre, tutti i giorni. Senti, ma sei mai stato invitato una domenica a casa magari di qualche amico, di qualche conoscente, sì, che sei rimasto deluso perché magari il pranzo era molto scarso? No, no, guarda, dalle mie parti la parola scarso a tavola non esiste, proprio non esiste. Anzi, sono stato così con un po' di angoscia per la quantità di cibo che ti propongono, hai capito? Sì. Per l'enorme quantità. Rimani con noi, sì, Lisa, io voglio chiedere, tu sei romagnola come me, quindi la domenica è sacra di solito per alcuni piatti come i passatelli. Ecco, ci dici un po' come la ricetta dei passatelli, perché è molto semplice, per cui è un piatto, secondo me, in brodo veramente molto importante. Beh, diciamo, per 4-5 persone, nella stessa proporzione, dobbiamo impastare pan grattato, quindi diciamo 300 grammi, 300 grammi di formaggio grattugiato, quindi a scelta tra grana, parmigiano, non entriamo nel dibattito sulla cosa, e 3 uova. Quindi l'impasto deve essere piuttosto, diciamo, compatto, elastico, e poi ci sono dei torchi anche fatti apposta, oppure lo classico schiacciapatate, e veramente in pochi minuti il passatello è pronto. Poi a quel punto ce lo giochiamo con il brodo, che è decisivo, naturalmente, per dare il giusto grado di poi piacevolezza al piatto, anche se ci sono poi versioni anche, diciamo, asciutte. Io, ecco, sulle versioni asciutte ho qualche dubbio, perché secondo me perde, specialmente quando vedo dei condimenti fatti di pesce, col pesce secondo me perde molto. Ma io voglio andare al ragù invece, perché col ragù può funzionare. E allora chiedo a Vito, il ragù alla bolognese è una cosa sacra, Vito. Quanto ci vuole a fare un buon ragù alla bolognese? Allora, quando ci vuole il tempo, se una fretta conviene che mangi una scatoletta di tonno. Per fare il ragù ci vuole tempo, ci vogliono al minimo 3-4 ore e le devi passare in cucina, devi prendere la carne, devi volergli bene, devi prendere la carota, il sedano, la cipolla, la triti leggermente, poi la metti nell'olio ad imbiondire. Una volta che è imbiondito ci metti della pancetta che hai tritato molto finemente, che gli dà quell'aroma, e poi noi lo facciamo a casa nostra non con 2 carni, ma solo con una carne. Noi usiamo la cartella, che è quel pezzo di carne del diaframma, sotto il diaframma della mucca, che è una carne che è molto indicata per la lunga cottura e dà un gusto molto intenso. Poi noi mettiamo il concentrato di pomodoro, attenzione, non i pelati, nella regola bolognese si va il concentrato di pomodoro, si mette su e poi si lascia cuocere, deve sobbollire. Mia nonna diceva che deve quasi respirare piano il ragù, quindi quando fa tutte quelle bollicine, poi lo lasci lì e lo fai cuocere. E questo è il segreto, il tempo, ma in cucina tutte le cose devono avere il tempo. Ma hai nominato il concentrato, hai citato, sì, il concentrato di pomodoro. Sì, sì. Devo dire che leggendo un libro di ricette della moglie di Edoardo De Filippo, che ha interpretato, sì, appunto Edoardo De Filippo, che sembra fosse un grande cuoco, un grande appassionato, sì, addirittura parlava di 2 mesi per preparare un grande concentrato di pomodoro fatto in casa, perché aveva bisogno di tanto sole, ma aveva bisogno di tanta cura. Oggi devo dire che è molto difficile trovare anche in vendita un concentrato buono. Se uno va nei vari negozi, io devo dire che non lo trovo mai, ma non lo, sì, trovo solo io, oppure... No, hai ragione, non è così facile. Sul mercato ci sono tanti prodotti buoni, ma le eccellenze sono veramente poche e vanno ricercate. Poi tu sai meglio di me che se tutti gli ingredienti che metti nel ragù sono di ottimo livello, il ragù sarà un ragù di ottimo livello. Certo. Grazie a Stefano Bicocchi, Vito, che ha una trasmissione di cucina su Sky. Vuoi ricordare il canale, Vito? Sul Gambero Rosso. Sul Gambero Rosso, perfetto. Sì. Lisa, si può fare a casa il concentrato di pomodoro? Si può preparare? Decisamente sì, e non è così, diciamo, difficile farlo. Più che altro è difficile trovare dei buonissimi pomodori, quella è la base. Con dei buoni pomodori li facciamo essiccare. A seconda del grado di essiccazione otterremo un concentrato doppio o triplo. Una volta che il pomodoro è essiccato, basta frullarlo e quindi otterremo il concentrato esattamente come lo acquistiamo. L'unica cosa, si conserva ovviamente meno rispetto a un industriale perché non contiene conservanti, per cui o lo teniamo in frigorifero o lo usiamo velocemente. L'ideale è essiccare i pomodori e poi frullarli mano a mano che si devono usare. Secondo te quale varietà di pomodoro è ottimale per fare un concentrato o fare anche il sugo di pomodoro, perché sicuramente più o meno sono poi la stessa cosa? Beh, un ottimo San Marzano è un grande classico, quindi funziona. Ma io devo dire che siamo arrivati, diciamo, alla fine di questo viaggio del pranzo della domenica. Allora non mi resta che augurare a tutti i nostri radioascoltatori, dopo aver ricordato che sempre ora la domenica alle 12 il gastronauta vi allieterà, o meno, magari a qualcuno non allieterà il pranzo, ma vi porterà a pranzo appunto tutte le domeniche alle ore 12. E allora l'unico modo per salutarvi questa volta è un modo un po' diverso, e io lo lascio appunto a Riva e al suo musichiere, che a molti, come dicevo, ricorda, come ricorda il pranzo tradizionale, ad altri non ricorda niente, perché appunto molti il pranzo tradizionale non lo fanno più, e lo lascio appunto a questa bellissima musica. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del Giannicolo Sant'Angelo risponde d'indondà. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi di felicità. Appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità.